Parliamo ora della sesta edizione del Fringe qui a Roma. Le date ancora non ho capito bene l'inizio, ma fino al 17 di settembre. Ne parliamo con Davide Ambrogi. Ben ritrovato, Davide. Buon pomeriggio a tutti quanti. Siamo tornati in diretta con il radioteatro proprio oggi, quindi è un ritrovarsi. Allora Davide, c'è stata un po' di confusione sull'inizio, raccontaci un po' tutto tu. Niente, insomma abbiamo avuto dei ritardi, quindi insomma partiamo oggi, domani. Ormai con le date non ci sono più con la testa, e andremo avanti appunto, sicuramente fino a anticipo, no, fino al 17, ma fino al 23 di settembre, okay. E poi forse probabilmente anche oltre, naturalmente con il nostro solito programma di 8 spettacoli teatrali al giorno, a sera, dalle 19:30 in poi di sera, sarà la solita multisala teatrale con teatro di tutti i generi, dalla commedia al teatro canzone, alla stand-up comedy, al teatro classico, al teatro di denuncia sociale, c'è cioè di tutto insomma, quindi per tutti gli occhi direi. Senti Davide, quanti sono i lavori che presentate in questa edizione? Sono circa 50 quest'anno, devo dire sono ridotti rispetto anche agli 80 di solito che presentiamo, però insomma sono tutti di alta qualità, molti internazionali, abbiamo addirittura 5 ospiti internazionali, e quindi siamo molto orgogliosi del cartellone che siamo riusciti a compilare. Allora Davide, vai, continua, stavi dicendo. Il prezzo è sempre il solito popolarissimo di 6 euro, che comunque per uno spettacolo dal vivo è niente, insomma, a meno di uno cinematografico, quindi insomma, sempre da teniamo sempre un occhio di riguardo per il nostro pubblico, e i spettacoli appunto se ne possono vedere naturalmente più di uno a sera, perché ci sono 3 fasce orarie differenti. Davide, ci racconti un po', per chi non conoscesse l'esperienza Fringe, di cosa si tratta? Ah, ok, il Fringe è solamente il festival di spettacolo attivo più famoso al mondo. Semplicemente. Ci sono oltre 240 edizioni in tutto il mondo, la più famosa è quella di Edimburgo, che proprio quest'anno compie 70 anni di attività, e gli facciamo gli auguri come al solito, e niente, è una festa del teatro, però teatro come appunto come performance, come persone su un palco che danno un'emozione, e noi da 6 anni riusciamo a fare altrettanto qua a Roma, siamo piccoli rispetto ad altre edizioni mondiali, però ci diamo da fare. Allora, ci ricordi gli orari, il luogo e poi i riferimenti web? Certo. Allora, appunto, ripartiamo dai riferimenti web per sapere trame e tutto il resto. Romafringe.it, www.romafringe.it, Fringe, come lo sto pronunciando con la finale. E poi invece, per chi volesse venire al volo, siamo in via Tiburtina 113, al MIT della Tiburtina San Lorenzo, in quella villa magnifica che è Villa Mercede. Siamo qua appunto da domani fino a fine settembre, e gli orari sono appunto il primo spettacolo, i primi 3 spettacoli insieme alle 19:30, puntuali, quindi orario aperitivo, e poi si va avanti con l'ultimo spettacolo che invece alle 22:30. Tutto qua. Questo è quello che dovete sapere. Adesso si trova sul sito. Perfetto. Venite a vederci, che è la cosa migliore. Allora, ti affido come sempre un piccolo compito. Chiaramente gli spettacoli che vorrai segnalarci al radioteatro e che trovi adatti allo strumento radiofonico saranno ben accetti e ben accolti. Per cui, insomma, segnalaci pure alcuni lavori da portare poi qui in radio. Assolutamente, anche perché il teatro è, tra le altre cose, forse principalmente uno strumento sociale, quindi tocca usarlo come tale, assolutamente. Un abbraccio Davide, ci vediamo lì. Un abbraccione, ciao. Grazie a tutti voi.